bisogna trovare gente che tiri anche da un po' da lontano, perché almeno può bruciare il portiere, può bruciare, capito? Cioè ci sono giocatori che tirano da 20 metri, da 18 metri lo fulmina, perché non sa neanche da dove sta arrivando. E quelli lì sono molto molto molto importanti, quei giocatori lì. Ok, io vado a mangiare, ci sentiamo dopo. Sì, ciao Antonio, troppo poco da mangiare, che adesso ne ho 3 o 4 più o meno. Anch'io, ciao tu. Sì, a me mi hanno proprio chiamato 2 minuti fa, mi hanno chiamato per poter scendere per la cena. Dunque vi saluto e ci sentiamo prossimamente, magari domani. Faremo un po' di tifo, senza esaltarsi troppo, però non guasta, dai. Con un po' di amore per l'Italia va anche bene, non c'è problema, anche se almeno io personalmente non sono mai stato un tifoso di quelli accanitissimi, ho sempre tifato con calma e con la testa a posto, senza fare lo scalmanato, come tante volte fanno tante persone. È così so che anche tu tifi in quel modo, allo stesso modo come tifo io o Roberto. Non siamo scalmanati, siamo gente di giudizio e capiamo benissimo cosa vuol dire giocare al calcio. Tu perché lo frequenti, perché hai la squadra, eccetera, io perché l'ho giocato, per cui problemi non ce ne sono. Ciao Roberto, ci sentiamo, grazie della chiacchierata, alle prossime, dai. Buona cena. Ciao Antonio, se stai ascoltando, buona cena anche a te, ciao Claudio. Saluto a tutti e io chiudo dopo il vostro finalino e dopodiché vado a cenare. Vai Roberto. Sì, ciao Giù, anche a me è stato un piacere per la chiacchierata, perché anche io stacco, vado a mangiare, ho anche un pochettino di fame. Ti auguro un buon proseguo di serata e buon tutto da e Forza Italia. Vediamo se è rientrato Claudio, avanti Claudio. Claudio non è rientrato, Antonio se vuoi salutare a Giulio, se ci sei, se no vabbè, ne sono tutti andati via. Allora, io adesso vado a mangiare e poi dopo provo a riaccendere, se ne auguro naturalmente, se c'è qualcuno, se no pazienza. Ciao di nuovo Giulio. Ciao Roberto. Se ci siete ancora io vi saluto, che sono già 8:15, dobbiamo preparare la cena. Ciao ragazzi, domani se coincide, Roberto, noi ci vediamo domani mattina, ok? E anche io avevo chiuso, ti sto salutando, ha salutato anche Giulio, ci sentiamo domani mattina eventualmente. Ciao, buona carica, anche io vado a mangiare, ciao. Ciao Antonio, domani, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, capo. Posizioni, mantenendo solida trazione e motricità. Le nuove coperture Pirelli hanno strutture rigide che... Andiamo, Bocconi, check. Hola, chicos. Andiamo. Abbandono. Andiamo, check. Ciao, faccio abbandono un po' girato, faccio. Ma no, tanto, faccio te. Ma le teste mobili mi hanno dato problemi e riportano solo la barra con le luci e boh, cosa ti dica? Cos'è, ti ha dato problemi? E non le conosci le teste mobili, con le luci rotante. Beh? Mi hanno dato problemi. Allora? Allora riportano la barra con le luci e basta, cosa ti dica? Scappa. Ho controllato oggi, ma hanno dei problemi. Ci passerò questi giorni, glielo dico. È arrivata l'amicizia. Ehi, ma non me ne ha accettato. E tu mi hai dato un messaggio su Messenger e glielo dici che sei quello delle luci. Scappa. Dopo provo a mandarglielo. Scappa. Vabbè, cazzo mi rompe così le scatole, chissà. C'ha problemi alla scheda, una già funziona, ma funziona così. Ma non c'è in garanzia. Me l'ha già detta che dopo carotto, a vedere, perché non li ho presi io. Scappa, veramente incredibile. Ma tu casino, bruciato, c'è la gamba è bruciata da ieri, domani me la andrà mai, ormai 37 gradi ha messo. Ciao. so già. Io tocco a travagliare la massa che ne è in varia. Vabbè, io sono andato pure a 39 gradi, io, 38, quindi fate sintetici. Allora con la tira illusori, dubbato sintetico, non è idea. Dopo incandescente, infatti meno male ci aiutavamo con lo spruzzino, ci bagnavamo un po', se no non si poteva lavorare. E infatti lo raffreddava il fratto, capito? E di là per il fratto? Se l'avevo fatto uno o due, siamo usciti pure a Cagliari. Ma cosa dico, con una ditta eri? Allora. Ah, capo. Ti mai, ha fallito, va. No, vabbè, poi ti spiegherò, dai. Ah, principale guglione, questo. No, in gamba. No, in gamba. Ah, capito. Scappa. Capo. Sei in gamba, già. Magari per le cazzate degli altri. No. Non è quello. È che cazzate pesante anche tu. Cioè, della sedia dal Mazzaro questa la sera carne di sabbia, come di voi che ne 2, 3, 4, 5 metri di sabbia, 6 metri, tra sabbia e ghiaia blu, 2 metri. Vabbè, fatto buono, infine. Per farti capire è un pesante come lavoro, fa cavassori. Tu conta che un rullo, c'è cioè un rotolo di platto, pesa più di 100 kg. Ebbene, in persona pure sceso, cioè per fatto la gruletta, come lo fate, come ne ha varato? No, piano piano, in due, in tre, a posto in terra, poi lo dovevi srotolare, tagliare il pezzo che serviva, pettinarlo con la macchinetta, poi prendere il pezzo e portarlo dove lo dovevi mettere. Tutto, quando te l'avevi messo in punta a casino, era me. Finito, ma che siamo rientrati intorno alle 10:30. Però è così. L'importante è che ti dà lo stipendio, poi. Lo stipendio? A giornata! A giornata, tu! Aspettate di tutto! Assicurazione! No, io sono. Quello è brutto, vedo. Guarda, come va? Quello è brutto, perché se c'è pure un'assicurazione. È bello perché capo se c'è assicurazione fa contributi alla pensione sempre. Ho capito. Lo so, però praticamente avrisce uno più bravo, capito? Io oltre a pettinarlo, però devi saper ritagliare bene, giusto. No, è un lavoro pesante, mia tu. Come di ora, Umberto, praticamente tu alle 6 devi essere lì, a posto di lavoro già, tra caricare il furgone e viaggiare, fare 2-3 ore, vabbè 2-3 ore di viaggio, ma 2 ore buone di viaggio lo devi fare, poi scaricare tutto, aspettare che arrivi la sabbia, e inizia a carrare con la carriola, e sembra così, tutto il giorno carrendo, che poi molte volte lui lo voleva finire, perché prima lo finisce meglio e più guadagna. Un lavoro infatti così so. Lo stavo dicendo. È la giornata cantina, senti una giornata. Come di ora tu? Ci cassetti una ora. Esatto, pranzo, pranzo, colazione e pranzo, ecco, pagava lui. Ecco, tu in una giornata a 100 euro riuscivi a portarteli via. No. Dipendeva chi sapeva fare quel tipo di lavoro, capito? Ritagli, quei chiodi lunghi per bloccarlo, no? Dopo i lavori sono tutti fuori. Qua ci sono ben pochi, Però quello ti porta nei posti belli, ti porta di Olde. Oggi siamo andati in questa villa, con una piscina che è bella. Se tu passi alla piscina riscaldata, bella retta. Che c'era il tratto, poi guardi a Kifu, il cane ce l'aveva tutto agganciato, tirato e rotto, capito? E infatti la differenza poi si è vista da quello che c'era prima a quello che abbiamo messo noi. Un'altra musica era. Quelli pagano, Adesso ci vogliamo un pacco di dinà. Cappa, per quello fai bene, gli niente che sgancia forte. Tu pensa, lui era giovane, cioè lui era grandetto di età, e lui era giovanissima, la compagna. Roba di gurrodoni già lasciato. servizio, la curiosità. Secondo te? Quasi. Quasi. Cappa. Ai ai ai. Così bello. Ma chi sa niente che sgancia, bucca glielo fai bene, non è una fottinuta. Che si vuole di nato, è così. Quante Berlusconi, capito? Giusto per farti un'idea. È così, Ah, Berlusconi si è fatta con i di plastica. Ah, così è. E allora? Addirittura. Praticamente va una specie di cappella, ne svita la cappella con un Viagra. Ha detto che va un bottoncino e si misureggia. Come lo vedo se lo sa. Qui su gli ha una girata davvero, dia. Oi, oi, oi, va a girato, oi. Ma ci è andato al muro della maglia, una verità, eh. Ma dico, che quello mi ha girato miliardi, miliardi, soldi miliardi. E noi siamo a ogni mese a segni tutto qua. Allora, a segni, oddio. E vabbè, c'è chi ha dei vizi di gioco, che fuma e beve, va al bar, qui a un mese non va a Rivini, non te ne tengono lo stipendio, più di un anno in più. Ma fottinuta di andare a rubare embriagamme, però il frigo è pieno a casa. Beh certo, tu vedi, fuga di tanto, faccio se ne affitti a noi, andà. Sì, vado al circo il fine settimana, anche settimana mi bevo un caffettino, quando posso me lo bevo, non sempre, bevo una birra, due birre, quando ho la possibilità lo faccio, sono non sto lì a capito, aspettare che mi pagano da bere. Lo so già, per carità. Ma la possibilità lo vuoto, ma no, io lo metto a casa, non mi interessa, ma la bevo a casa. Poi lo primo minuto già è pieno. Capa, ho portato questa cantana di lampado 30-20 euro. Cioè, se uno va, ci va, ci va quel sabato così e basta, poi c'è iniziato a fare le cose. Ma è stato da cantare di 20 euro, mamma mia. Quando non è presa quasi 30 euro spendiamo, siamo di più puro. Cappa, è normale. E poi c'è di più tra bagnoschiuma, sciampi, corruttori, dentifrici, queste cose così, no? E te si parlava la roba morbidente, e più di 30 euro. Se ne vogliamo un bel, facciamo il carico. E poi tutto il resto, pasta, pomodori, zucchero, latte, formaggio, di tutto. Quello ci serve a tu. Qualche birretta compriamo anche. Quanto mi dura? Una settimana. Cazzo! Siamo in tre. Vabbè che io lo prendo, sì, lo prendo così, sì. Cioè, piano a piano, capito, vai. Lo prendo durante la settimana, ci manca qualcosa, poi noi siamo in due, ma vabbè, se ci manca qualcosa, a me lo piglio, un mi ha dato. Vabbè, la tua palla della bicicletta? Tutto nuovo ho messo. Ah, l'hai fatto tu? Cappa. Molto hai speso? 37 euro. Sono andati da e di nuovo ti fate ne paga 70-80. No. Una me l'ha messa a lui, una me l'ho messa io di ruota. Capito? Tra camera d'aria e tutto. 37 euro, ma a me mi tratta bene perché a me mi conosce. Vabbè. Ma chi l'hai portata? Fiocca. Ah, ecco. A Giugavit, eiaia. Vabbè, no. Non c'è problema. Scappa. Io sono tesserato anche lì, c'avevo la tessera. Quindi i pezzi li pago di meno. Stavo a vedere, si è fatto le muglia, cazzo. Si è fatto le muglia. Scappa. Ehi, dicendo, io lì c'ho lo sconto, c'ho per quello che vado a Fiocca. Non vado dall'altro. Da chi? La Fiocca, via Napoli. Ah, buh. Ma conosci la Fiocca? Ah, te dico, padre, che cazzo è che tu sei fatto le Muglia? Muglia? Perché? Non lo so. Sei fatto le Muglia. Ah. Ci sono fatto le Muglia. Questo qua è... praticamente... che su Facebook gli erano dei dentisti, no? E questo qua lavora per un dentista a Sassari. E niente, ho fatto due chiacchiere con lui, poi ci siamo usciti che lui era un CV anni addietro, ma tantissimi anni fa. E niente. Comunque gli ho detto c'avevo questo gruzzoletto, ma mi sa che non mi ha più ci amato, vuol dire che non bastavano. Ah, così è. Però non mi ricordavo chi era. Quasi non si sa. Infatti mi ha invitato in questo gruppo ora dei matturi. Addirittura. Mi aspetta. Ah, radio teletrasmissioni, comunicazioni. Questo gruppo si trova presso Sassari. Che ne gioco? Costantino, ma mi va un po' caldo così, mi va un po' godotti, no? Chi è la madre? Poco così è, vero? È un po' bel gattino, un po' come acqua. Avanti, giù, cucciù. E non è che c'è lui? Qua non sento nessuno io. Ragazzi, avanti. Oh, ce ne sono qua, sta arrivando tre. La buono giù, cucciù, arrivando Santiago 8. È vero. Cappa. Ma non è che comanda anche per un babbo? Ah, non ha babbo. La mamma. E la sua carriera, che sono l'agno l'agno. Oddio, che è un biombo. Cosa è questo? Un biombo. Ma cosa? Ma per carità. Non per male, no? Ma che cazzo conosci? No, e poi mi ha fastidio quando ti metto le mani addosso. Ti piacciono di sigaretta, cazzo. Tutto strano, ma cos'è la mamma, cos'è? Un po' vedo, ma cos'è? Aspetta che vado. Cappa, c'era, non c'era il padre di sto ragazzo? No, gli è morto. Ah, ho capito. Poverini, però già ci arrangiamo abbastanza bene, dai. Vabbè. Cappa. Ho convinto chi sull'agno l'agno era un babbo. Ah, fatto la mamma. Ah, e se brinchi qui, adesso sono nozzi, sono poverine. Poco fa un ragazzo era sempre nel rifiso, un incidente, vicino alla pizzeria di Danilo. Gesù Maria, ha fatto un volo, tu pensi che era molto senza il gasco, la macchina l'ha piatto in pieno, tu pensi che stava prendendo anche sangue dalla testa. Ah, è duro guasto però. Sono confirmato, poi si è tirato dritto. Marico, ma quando mai devi tirare dritto? Devi abbaidare, devi. È scinto da Piazza Canini. Cazzo senso unico. No. No, già era giusto già. Cioè, ma almeno guarda, ti fermi e guarda, sporco randagge. Lui praticamente stava a piano, l'ho detto verso la piazza, stavano verso la casa di Marina, giusto per dire, si marcia a piede. Beh, tu gambo che possa. Gesù Maria. Un lavoro che ha fatto. Ah, che impara. Ti era cosciente, adesso non bisogna vedere quando arriva all'ospedale, buh. Sarà stato pure senza battente, nulla. Ma si buh. Ma si buh. Si è venuto, ti fuggi, non vedi. Ma che se non... se ti devi fermare, è inutile. Che ti puoi uscire una macchina sia di... dove passa il tram o poi dall'altra parte. Votati per me, mica ci passi dritto, mamma così. Tu ti sei tirato dritto, infatti la municipale di tu. Ma qua non ho visto niente. Sì. Io ho visto tutto in diretta. Ah, va bene. vieni chi do Bovaraccio che non entra nulla. Ma qui vieni questa signora Bovaraccio, tutta la macchina è fasciata. Qualcuno li ha a pagare. Vabbè, c'è anche cosa di vittima della strada, però se rompo le palle a lì, cioè senza venire qui fa. Cosa pensa della corsia giusta? Non c'entra niente. Insomma, non sai come vanno a finire queste cose. Che se si fa di male, fa di pidare di impegnare la patente, senza venire qui fa me. Perché scusa? Oggi compreso, mica... Come si dice, mica lei c'entra niente, lei ha la corsia sua, tranquilla e serena. Come se io sto stando a via Catena e mi dice anche lui la via, mica qui fa mica. Ah, giusto che sono ammazza i betti in mezzo alla legge. Cioè, sai quante ce ne sono di questi casi? Che lui non è, magari non ha cui pagato di timone in mezzo. Ma purtroppo la cosa è la sua, la cosa è la sua. Ah, sua sì, cazzo, sei un castigato. Poi di buona corre in chive. Ah, non ti vemme. Bisogna guardare, inutile, anche se non ci sono macchine. E un attimo, e poi lì corrono un bel, cazzo, il problema la sera stava andando anche piano. Era scioccata. Infatti tutto il capo che ribaldo va via davanti. E lui si è preso anche in faccia, l'ha preso. Ma c'era tutto il sangue in faccia. Lui che si meriteggia. Io penso che... è messo male anche tu, male. Magari è uno cazzo del bigliaramotto, così, magari senza battente puro. Già. Per carità. Vabbè. Casino. Comunque sabato sei lì. Ma comunque ho dei dubbi. Dei dubbi di quella ragazza che ha citato. Ma vale, non lo so. C'è una cosa fasulla. Ma se fa quello non l'accetto e mi arrabbio molto. Perché mi ha detto che è mezzo rompo, tu capito? Poi non lo so, Se glielo scopro io son cavoli amari, Io dico, no, non si fanno queste cose. E gli altri cose che si tratta di un pezzo malato, va. No. Adesso vediamo se andiamo, Scappa, non voglio che sia una falsità per farci su di lui, già mi è sembrato un po' strano. Comunque, non voglio. Non voglio assolutamente che lui abbia fatto una cosa del genere per farci pubblicità. Perché se no con me ha perso. Ma solo da dirti. Poi ho capito, questo menù 8 euro, un piatto di pasta. Dici che mi sono un po' di roba. Tu non mi credi che noi, tu ci crederai, con noi qua da Nannis, no? Andavamo con Marina, quello non lo so, vabbè, se hai aiuto da questa ragazza ci può anche stare. Se no noi con desiderio noi mangiamo. Mangiamo e beviamo, 10-12 euro. Voglio comprendere cosa combina. E le vai veramente insomma a coppie, molte volte ci invitava anche la pizza con la Nutella. E chissà se la può attaccare ai metallanchi di Giappone. E cosa? La pizza con la Nutella. No, dico pizzeria, non da loro. Capa. Ma dico, se è per farlo veramente per questa persona qua, ci sta, va bene. Se papà lo fa farsi il business edu, non andiamo d'accordo. Non lo so, si vedrà. Capa, se io vengo a sapere una mezza parola così, lui con me ha chiuso, io dico pure. Contigo, basta, conmigo. Penso che abbia chiuso con tutti. E quanto sei già due, sabà. Allucinante. Basta un tir, sto un po', se come se mi l'epoca fa benissimo. Penso che... Tu hai informati tu a vederci se a che cosa. Cosa tu scusa? Informarti. Se è veramente così. Ma dice che ne ha fatto anche un'altra in serata. Se per far aiutare qualche persona. Sì. Poi la voce di corridoio abbiamo detto così. Non lo sappiamo noi. Infatti. Non penso penso che quelli là stiano andando a cantare. Cazzo, ma faccio piglia di Barunguru, scusa, cioè, non penso. Ma si buca, ma andai in piscina, 25 ore a testa, come cosa c'è il pesce, e poi la sera se mi veni i fammi, cioè, 50 euro in due, mi tra entrare e mangiare. In più, se la sera mi veni i fammi, devo ancora sborsare di là. Ma va, sta cagata. Cazzo, posso prima mi andare a mari, tetto marina, mi si dà, mi pongo in benzina, e porto tutto quello che voglio, tutta la birra che voglio, i panini che voglio, e mi resto al mare. Appunto, se non pigli ti tratta un ragazzo e ti porti i panini che vuoi e mangi i panini che vuoi e ci sta bene lo stesso. Con meno di 10 euro c'hai tutto, ombrellone, sdraio e tutto quanto. Ma non piace a Marina perché dice in città, capito? Qua non te ne accorgi neanche. Buh, di là è da. Capa. Cacca e notti. Avevamo tutta la notte, io. Se possiamo arrossimo, andiamo in qualche posto. E luogo vivo. Chi ho avuto il arrossì? Certo, guarda, non video. Ma ho preso il cinghiale. Ah, no. Dico, ma lo troviamo qualche spiaggetta da arrossire. Buh. Cazzo, ma pure già il cinghiale in giro bene, mamma mia. Già lo so già. Che si attacca nei bogu bogu, oh yeah. Oh, che fuggi tu. Cioè, ti vede fuggi il cinghiale, non ci sta vicino. Oh, ti si muove, infatti, un'entrata a 50 euro. Mangia pesce, bella così a fianchi. Ma conviene fare andare là dove ti ho detto. Ci risparmia, ci stai tutto il giorno e mangi quello che ti pare, ti piace. Anche però Maria non gli piace andare lì, capito? Cosa ando da solo, quando? Se lo tanto solo ce l'ha andato. Ha voglia. Ma non ho mai provato là. No, non ho mai provato, però non gli piace in città. Guarda, non te ne accorgi nemmeno. Tu ci sei andato, sì. Sto anche benissimo, sto. E poi fanno un po' di manutenzione, pure per la pulizia, la piscina che dove fanno le gare, mi capito? E poi c'è un'altra piccola per i bambini. E olimpionica, ma si tocca? Sai nuotare? Sì, ma perché quella di dove andiamo non si tocca lo stesso? Al centro non tocca. Sai che è alta, boh, 2 metri e più. Sei guarioso. No, già c'è il gradino anche. E allora già si tocca, dai. C'è un punto dove tocchi. Capa, c'è il gradino, però se te ne vai in fondo non tocchi. Si pare se non sai. Non sai nuotare. È la stessa cosa di là, è la stessa cosa di là, non tocchi. Sarà 2 metri, boh, e più. Infatti io ci tuffo e esco subito. C'è il tuffo, il classico tuffo, là, il trampolino. Anche là ci sono. Più di uno venne. Che fa gaffa. È enorme lui. Dove c'è? No, quanti trampolini ci sono? Un bel po'. E so di chi c'è proprio che tratta i professionisti. Vabbè, certo. Quello è molto paura. Come? Che io non so nuotare tanto bene e mi metto sempre in sicurezza. Vabbè, ma pure noi che siamo un campione, però già mi arrangio, dai. Chiappa, no, io proprio. Vabbè. Ti arrangiassi, a tu. Io vabbè, ho avuto brutte esperienze al mare, brutte. Tieni parenti? A moglie? No, è successo che a Porto Torres si lì alle roccette. Praticamente mi sono buttato, ho fatto un pezzettino, cioè lì non tocchi, no? Stavo scendendo, c'era questo mio amico. Praticamente come mi sono attaccato lui c'è sceso lui. Lui pensava che io lo stavo affogando, no? Allora poi se mi ha toccato lui a me. La diva ha subito un bel di giù, ma a fuoco. Brutto, brutto, ma guarda, questo visto una volta in faccia. No, le rocce basse, tanto basse e basse, capito? No, se non è sicurezza io ho paura. No. Ma comunque già mi butto, non è che mi butto. La rocca mai no. Ma è ma quella rocca bella, quella roccia più bassa. Però non mi fidano. Chiappa. Maru. Cosa vuoi fare? Lo dimmo, un matteccio, lo dimmo. No, è più forte di me, per cui scaltare sempre. Ah, beh, certo. Idem con patate. Io non mi fido, No, là, al di là di là più già si sta bene, perché non è molto grande come piscina. Come tutti i tuffi, dove c'è il punto più alto dell'acqua, fai tuffando lì, mano a mano che esci, poi c'è il gradino, capito? No, è tutta una, però c'è il gradino, c'è anche. Lo so, è dal punto più alto. Lo so. Ah tu, vabbè, poi c'è anche che buru in un metro d'eva, buru di manco. Mamma mia. Ma un metro d'eva blocco però. Cioè esco fuori, cioè non ho problemi. Sì, non hai compreso. Se uno è, può morire pure in un metro d'eva. Lo so. Vabbè, già sono cose belle, là, alla fine, là. A me piace un po' la piscina. No, morì, La piscina c'è bella, un bel, perché vai lì, poi ti fa la doccia, ti porti il cambio, ti fa la doccia, ti cambi, vai a casa pulito, ma c'è l'ora di arrivare a casa, prima della bazienda, oppure mai molte volte entro io, è un casino, va, per carità. Ti porti il bagno schiuma, lo shampoo, ti fa la doccia, ti giambi. E arrivi pulito, poi te puoi andare magari da soldati, te ne puoi andare da qualche parte, capito? Puoi andare da qualche parte, mangiarti qualcosa e poi quando arrivi a casa non fai altro che lavarti, cioè cuccarti, sei già docciato. Ciao, e va tu, Remi, si può punire un garrofone con i bizzi, col forno per fare pizze. E che torre? Lo conosce, la rotonda. Ah, Torre Pidas. Ehi! E fatti bene. Lì ne scende gente. Si buono i bizzi, fa 13. Bisogna vedere se li danno il permesso, perché lì c'è Caffè 7, che le fa. Lo Spideccia. No, Caffè 7 si chiama. No, c'è l'altro che fa le pizze. Non li fa di chissà. Tutto suo è Antu, non è che me ne sbagliare, tutto suo Non lo so se è tutto suo, no. Sì, te lo sto dicendo io. Chiappa. Si chiama lo Speed Daisy, chiama. Che travaglia lavoro per gli orettori, me. Speed Daisy. Chiappa. Due pinzetti di bigliassi, ce l'aveva solo fino a ne bruciato. Il carrozzone col forno per le pizze. L'idea che è ronchenti, Te lo ricordi che tu ne hai combinato, poveraccio? Di che cosa? Il carrozzone quanto ne ha bruciato. Chi in via Pasqua l'ha serrato? Per un bel motivo. Ma già si sa, care, avanti a nero zero, che l'ha fatta. E poi gli ha morto anche un figlio. Sì. Ma chi gli ha fatto, avanti non fai più. Ah, così, Sì. Morto? Già lo sa, care. Ah, boh, cosa ne so pure. Già te lo dico, care. Che è stato. E di inchivi, trova niente, e non vuoi più però. Ma è molto di cosa, si è ammazzato. Molte malattie. Chi è? Ma non ho mai stato. Ci sei? Andiamo, che è? Bello io, metti in gocco, va, cazzo, quel tracco. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, anche a te domani. Saluta a Sara, ciao. Ehi, ciao.